Tempo di sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, oggi calcio nel senso di pallone, proprio pallone senza se e senza ma, per prepararci alla serata di campionato e per la buonissima ragione che è tornato a trovarci il maestro Adalberto Bortolotti. Bentornato. Ciao Gigi, bentrovato e tanti saluti a tutti i tuoi ascoltatori. Senti, io partirei dall'articolo che hai pubblicato la settimana scorsa sul Guerin Sportivo, dedicato al regista occulto, e cioè ha un ruolo tornato di moda che tu riassumi negli anni dell'atletismo, negli anni 80, 90, era scomparso e poi è stato riabilitato in pompa magna. Oggi, dici, è un optional, nel senso che può essere playmaker, geometra, costruttore di gioco, eccetera, eccetera. Il classico regista è Pirlo, numero uno della categoria. Ma la cosa curiosa è questa, e hai trovato un parallelo di assoluta suggestione, che dove c'è un regista invece di fascia, come la Juventus con Camoranesi, si riproduce in realtà la situazione dell'Italia 82 di Berzot. Mi sembra magnifica. Spiega, illustra. No, lo spunto è nato dal fatto che io sento dire e leggo che la Juve gioca senza regista. A me sembra un equivoco basato sul fatto che noi siamo abituati a individuare il regista in una delle due mezze ali, parlando antico, insomma. Cioè, parlando antico. Secondo me la Juve, il regista, quando gioca, ovviamente poi adesso è infortunato e si vede anche un po', ce l'ha, e come, perché Camoranesi dalla sua zona di fascia destra, alla quale poi è sempre meno legato, svaria per il campo, ma comunque è quello che raccoglie le spinte dei difensori e lavora i palloni per gli attaccanti, non disegnando poi anche di concludere. Per me nella Juventus gioca regista a tutti gli effetti, e un po' lo accenna anche in nazionale, dove va un po' oltre le sue mansioni, ma lì ovviamente c'è un regista classico, titolato come Pirlo. Nascendo da lì, pensavo a quante altre volte anche in passato abbiamo visto il regista dirottato dal suo ruolo centrale, e in effetti la nazionale di Berzot dell'82 non aveva un regista così canonico, diciamo, in quanto delle due mezzali, uno, Tardelli, era un universale che faceva di tutto, ma era prevalentemente corsa, interdizione, rilancio, tiro, tutto, ma non un regista classico. E non lo era neppure Antonioni, che era più che altro, adesso lo chiameremo un trequartista, insomma. Sì. In realtà quel gioco che fa Camoranesi nella Juve di adesso, in quella nazionale lo faceva Bruno Conti, che non era una semplice ala destra, era quello che portava avanti i palloni e smarcava, tant'è vero che un osservatore che un po' dovrebbe intendersene come Pelé, sin dalle prime partite lo battezzò l'uomo determinante della squadra. D'altra parte, io credo che Berzot, ancor prima di Conti, avesse questa idea, perché Bettega, che poi non giocò certe volte proprio perché portato via dagli infortuni anche in quel mondiale, era in realtà il cardine della manovra offensiva, non era l'ala sinistra, era, per carità, un fior di realizzatore, come dimostrano le sue cifre, ma faceva un po' il gioco. Così come in quel mondiale lo fece superbamente Bruno Conti. Visto che stiamo facendo un ripasso di storia e siamo tornati indietro una trentina d'anni, forse è interessante segnalare a chi allora non c'era, oppure o ripassarlo a chi invece già di calcio si occupava, che in realtà quella di Berzot fu una scelta, come sempre accade nel calcio razionale a parer mio, fu una scelta dovuta non a una filosofia di gioco preconcetta o precostruita, ma a una necessità, nel senso che gli era mancato prima il regista classico azzurro, che era Fabio Capello, per ragioni anagrafiche e sanitarie, insomma, che il ginocchio l'aveva tradito anche prima del tempo. Berzot provò con Pecci, che era stato giustamente battezzato sul piano dell'intelligenza il vice, insomma il successore di Cappello, e quando si rese conto che non c'era un regista ortodosso, prendendo nota delle caratteristiche di Tardelli e di altri giocatori, ed eravamo in pieno influsso olandese allora, no? Cioè di non più specializzati ma di giocatori universali, come li hai giustamente definiti tu, pensò di affidarsi prima a Causio, poi a, e lo hai ricordato in questo articolo, poi saltuariamente a Claudio Sala e poi definitivamente a Bruno Conti in questo ruolo. La suggestione che la Juventus a distanza di così tanti anni, non so se consciamente o inconsciamente, riproduca quello schema effettivamente è forte. Sì, io credo che anche in questo ci sia una necessità, perché Camoranesi era una splendida alla destra, diciamo. Nella Juve di Cappello, per riportarsi a un modello di squadra che poi è stato travolto da Calciopoli, ma il cui valore tecnico secondo me sopravvive a quelle vicissitudini giudiziarie, Camoranesi era uno splendido esterno di destra, come Nedved era un grande esterno di sinistra. Certo. In mezzo c'erano Vieira e Emerson, c'era meno bisogno di dirottare la regia, perché Emerson allora, ai suoi massimi splendori, sì, era in verità un magnifico regista, e Vieira a sua volta un centrocampista che sapeva fare tutto, all'occorrenza anche comandare il gioco. Senti, come sempre quando ti affacci a questa ribalta, gli ascoltatori ne approfittano nel senso migliore. Stefano da Udine domanda, seguendo questo filone, se D'Agostino dell'Udinese non potrebbe essere un altro di questi registi occulti, a parer tuo. Sì, perché l'Udinese in effetti è quello che, anche molto responsabilizzato mi pare quest'anno, sì, rispetto al passato. Vero. Recente, anche perché l'Udinese ripropone un po' un attacco senza un regista definito nei ruoli centrali. Hiller è un magnifico giocatore a mio avviso, che sa fare di tutto, però D'Agostino è quello che inventa un po', per punte fra l'altro molto rapide ad apprendere e a recepire i suggerimenti. Esatto, secondo me D'Agostino è appunto nel filone di Camoranesi. Certo. Adesso te ne propongo uno io, perché c'è un giocatore dell'Inter per il quale, no, non dico che stravedo, perché prima di stravedere è piano, ma insomma che mi titilla particolarmente. Tu hai annoverato, ragionando sull'Inter, Stankovic, che magari come regista sarebbe stata una soluzione un po' stiracchiata, scrivi, poi è stato dirottato altrove, eccetera, eccetera. Poi il figo che non può più essere Camoranesi per ragioni fisiche, eccetera, eccetera. Io dico che non regista, ma un playmaker inatteso dell'Inter è Maicon, anche se sembra una bestemmia dato il ruolo. Sì, beh, Maicon è poi una forza della natura. Noi siamo abituati magari inconsciamente a considerare il regista un soggetto più raziocinante, sì, che atletico. Ecco, Maicon esprime una tale esplosività atletica nei suoi inserimenti sulla fascia di competenza, che non si è portati ad abbinarlo a una, certo, figura di regista, no, perché questo no, sembra piuttosto una forza della natura. Insomma. Poi l'Inter lo trova con Cambiasso restituito ai suoi compiti, sì, perché io parlavo di una fase iniziale di stagione in cui Cambiasso faceva, fra l'altro, magnificamente il centrale difensivo. E quindi in mezzo non c'era un vero uomo d'ordine, c'era piuttosto uomini di movimento tipo Zanetti o appunto Stankovic, che sì, anche lui sa fare un po' di tutto, però se è libero da compiti proprio di coordinamento è meglio, ecco. È vero. Rimane però fatto, Maicon, per carità, perché poi oltre alla potenza di questo inizio di stagione, oltre alla potenza ha quelle doti di grande disinvoltura di palleggio, e quando lui avanza sulla destra e dall'altra parte c'è Ibrahimovic un po' sulla sinistra, mi sembra di vedere due registi occulti, no? Due soluzioni occulte. Se ti interrompo, però Ibrahimovic è proprio un'altra figura del regista, certo. Fa tante cose che non osiamo attribuirgli anche quella, ma in certi momenti sembra proprio che quello che detta i tempi e le giocate sia proprio Ibrahimovic in posizione centrale, come lo è giustamente mai come in posizione di fascia, perché negli scambi, nelle sovrapposizioni, come dicono quelli che parlano calcio moderno, Maicon è l'elemento egemone dei due, ecco, voglio dire, è quello che detta il passaggio, lo scatto, eccetera. Allora, Daniele scrive: mi permetto di ricordarvi Palombo della Sampdoria, che è molto migliorato, verissimo. Che io grande... lo citavo fra sì, sì, no, ma è citato questo articolo. Adesso non l'abbiamo letto tutto, ma sì. Ho letto tutto. Lo mettevo nella categoria registi dinamici. Dinamici, perfetto. Sì. E infatti, di dinamismo mi pare che Palombo. Fa regia, ma fa anche un lavoro enorme. Enorme, di... un regista di fatica anche, oltre che di buona, sì, di buona qualità. Questa settimana invece su Guerino, che è in edicola attualmente, il capitolo è un po' diverso ed è un po' meno positivo, nel senso che ti sei soffermato sui cavalli bolsi di ritorno, no? E hai citato Shevchenko come caso limite, ma poi i Rolando Bianchi, Lucarelli, Tavano, insomma tutti quelli che rientrano. E ti chiedi se questa Serie A non sia diventata un buon ritiro ormai, in parte, no? Come d'altra parte qualcuno quest'anno all'estero aveva anticipato. Sì. Ma io ponevo questo dato, che il fatto veramente nuovo, non di oggi, ma degli ultimi anni, è la frequenza dei giocatori che partono, no? Perché noi eravamo un paese importatore, fino a un certo momento quasi esclusivamente importatore di calciatori. Sì. Poi abbiamo cominciato ad esportarne in numero sempre maggiore, mano a mano che noi eravamo in un momento, per un certo periodo, quelli che pagavano di più, quindi era anche logico che attirassimo e conservassimo, perché sì, è vero che molti calciatori dicono che fanno certe scelte per ragioni di vita, ma forse le ragioni di cassa sono quelle vere, insomma, ecco, nella maggior parte dei casi. E non necessariamente. Però, da tanti giocatori che partono dall'Italia è impressionante quanti ne ritornino, ecco, perché molti ritornano addirittura calandosi il l'ingaggio, eccetera. Sembra che noi abbiamo una forte attrazione di ritorno, o forse abbiamo anche una forte dose sentimentale, per cui i vecchi idoli abbiamo un grande piacere di riabbracciarli. Bene, al di là del valore tecnico dell'operazione, nel caso, ecco, di Shevchenko, sembra che Shevchenko al Milan, onestamente, sì, adesso magari non è in forma, eccetera, ma in ogni caso fosse un di più in questa campagna del Milan, certo, ecco, una concessione al sentimento. Esatto, in buona parte proprio così è andata, e per quello è spiegabile, o a quello è imputabile, a seconda delle chiavi di lettura. Sono molti messaggi e due consecutivi sono particolarmente divertenti. Il primo l'ha firmato Enrico da Vicenza e scrive: Garanzini, lei è un giornalista geriatrico, largo ai giovani, mi piace molto, lo trovo molto divertente e trovo molto rispettoso quel lei, vuol dire che il concetto di geriatrico è molto forte davvero per Enrico. Non conosce te, questa va bene ad Alberto. Un altro invece meraviglioso, Sergio, su un taxi di Milano dice: sto portando sul mio taxi due signore che non parlano ma gridano, quindi non riesco a sentire la sua trasmissione, glielo dicerei di abbassare un po' la voce. Io ci ho provato. E dopodiché Marco Manzardo da Udine, che è un fedelissimo da anni, dice: abbonandomi al Guerino non ero ben certo dell'investimento, ma il solo articolo che scrive il grande Adalberto vale il prezzo. Questo non lo facciamo sentire a Bologna e lo facciamo sentire soltanto ad Adalberto, al quale andrò a chiedere l'aumento. Ecco, bravissimo, bravo. Presentati. Mi sto chiedendo se sia un'idea mia o se davvero questo Ballardini, che già mi aveva molto, ma molto colpito lo scorso anno a Cagliari, dove a parer mio aveva fatto l'impresa, se parliamo dei tecnici dell'anno scorso nel rapporto materiale a disposizione, sì, situazione ereditata, ecco, secondo me ha fatto meglio di Mancini e di chiunque l'altro. Ecco, il fatto che abbia rimesso in quadro in 4-4-8 il Palermo, senza esagerare, cosa può voler dire però, alla luce dell'esperienza tua, della nostra esperienza geriatrica, Alberto? Guarda, io sono talmente d'accordo con te che ho scritto, proprio parlando degli allenatori, che si erano verificati due assurdi, e quello storicamente più importante era che il vincitore di due o tre scudetti, secondo che vogliamo considerarli o computerizzarli, eccetera, era stato esonerato. Ma quello, secondo me, veramente più grave e incomprensibile era stata la non conferma di Ballardini al Cagliari, perché se i meriti di Mancini nello scudetto dell'Inter erano stati sicuramente importanti, ma non potevano essere in percentuale oltre un certo limite, si trattava tutto sommato della squadra più forte del campionato. Certo. I meriti di Ballardini nella salvezza del Cagliari per me erano stati vicini al 100%, perché lui aveva preso una squadra che era retrocessa. Non è che stava retrocedendo, era proprio andata. Giudizi unanimi, retrocessa. E l'aveva salvata brillantissimamente, cioè non con risultati sparagnini, ma andando a giocarsela in iniziativa su tutti i campi, cogliendo risultati, ma anche gloriose sconfitte in mezzo. Cioè non mi era sembrato l'elemento più interessante in un panorama di tecnici un po' pietrificato, che poi quest'anno è stato sconvolto ovviamente dall'arrivo di Mourinho. Che sia tornato in sella mi ha fatto un enorme piacere, che poi lo abbia fatto con queste due vittorie. Io ho seguito la prima partita del Palermo, quella con la Roma in rimonta, ed è stata una partita magnifica, cioè anche sotto il profilo del coraggio. Mi sembra un tecnico molto coraggioso, io non lo conosco personalmente, ma molto coraggioso e insieme razionale. Allora, trovare un coraggio razionale non è facilissimo. Io l'abbiamo attraverso Flavio Solardi della redazione, abbiamo appena preso contatto con lui, la settimana prossima contiamo di averlo qui con noi, proprio per conoscerlo radiofonicamente almeno, ma per conoscerlo di persona. Adalberto, andrei avanti ore e credo anche gli ascoltatori, invece bisogna dosare un pochino anche le tue apparizioni, che non sono apparizioni ma insomma le tue partecipazioni. E quindi chiuderei con una domanda. Dunque, entrambi ci siamo, se non ricordo male, durante gli europei, preso una cotta immediata per Arshavin e poi ce la siamo dovuta far passare abbastanza in fretta. Io domenica sera ho rischiato lo stesso con Zarate, sinceramente, perché mi è sembrato un giocatore di qualità eccellenti, insomma, l'aggettivo trovalo tu. Il percorso di questo ragazzo, la sua età molto giovane, il fatto che non abbia esperienza ad alto livello ancora, che cosa ti induce a pensare in prospettiva? Ma anch'io l'ho scoperto guardando Milan-Lazio, quindi in una sconfitta, in una netta sconfitta, che non indulge, non ti spinge all'entusiasmo, no? Nel giudicare un giocatore che ha perso 4-1, tutto sommato, la cui squadra ha perso 4-1. Sì. E a me ha fatto un'enorme impressione, perché mi è sembrato di una completezza spaventosa, cioè tecnica, cioè un rapinatore sicuramente, perché ha trasformato l'occasione con una freddezza enorme, ma anche un giocatore di tecnica eccellente, di idee, mi ha sorpreso, perché io confesso non ne avevo sentito molto parlare prima. No, difatti. È un ragazzino, no? Cos'ha, 21? 21, 22 21, anni. 21. 21 anni, giocava negli Emirati. È così? Sì, giocava in un calcio improbabile. Dagli Emirati Arabi. Mi è sembrato che un talento del genere, che l'abbiano scoperto gli Emirati prima dei nostri osservatori, una cosa un po' singolare. Io credo che la Lazio abbia fatto un grandissimo colpo. Tant'è vero che un'assenza formidabile in senso negativo, come quella di Rocchi, che è un giocatore fondamentale per la Lazio, è stata ammortizzata tutto sommato senza eccessivi traumi proprio grazie all'esplosione di questo giocatore. Poi è chiaro, lo dobbiamo aspettare, però non credo che le doti si inventino. Io quando vidi la prima volta Messi giocare in un under 20, in un campionato under 20, mi sembrò un fenomeno. Dopo è chiaro, ci vogliono le conferme, però quando ti esprimi a un certo livello è difficile che poi fallisci. Perlomeno le qualità sì. Sono quelle, poi puoi smarrirti per altre ragioni, come purtroppo è successo a tanti. Se ti suicidi calcisticamente. Certo. Umanamente e calcisticamente. Adalberto, grazie. Grazie a te, grazie. E a risentirci. Chiudiamo allora questo collegamento con Bologna. C'è un ascoltatore di Bari già in attesa. C'è un messaggio di un romanista che insomma, si sta forse un po' tanto illudendo su Menez. Dice: sa tenere palla, sa fare assist, perché non provarlo nel ruolo di Totti? Io credo che il ruolo di Totti sia un po' impegnativo e insomma, no, non lo auguro a nessuno il ruolo di Totti, nel senso che bisogna essere Totti per giocare alla Totti. Vorrebbe dire calarsi subito in un abito troppo ingombrante. Detto questo, se vale così un'occhiata alle qualità di un giovane, mi pare che Menez, anche nel primo tempo difficile che la Roma ha giocato contro la Regina, deludente, eccetera, prima del regalo a Panucci, mi pare che Menez fosse l'unico che ci provava seriamente, che abbia mostrato delle qualità molto ma molto interessanti. Sentiamo Matteo dalla provincia di Bari. Buongiorno. Buongiorno, signor Canazzino. Niente, volevo fare due o tre osservazioni solamente. Sì. Una è una domanda diretta. Sì. Tra Suarez, Bulgarelli e De Sisti, chi sceglierebbe attualmente? Ha detto lei l'ordine, l'ha già detto, 1, 2, 3. Ah, ecco, poi. Allora ci troviamo perfettamente. Poi? Poi, niente, io volevo incentrare un minuto sull'attenzione perché mi ha dato un poco di fastidio. Ho letto su un giornale che le Olimpiadi del 1912 saranno sulle TV, diciamo, non pubbliche. Quelle registrate del 1912 o le prossime del 2012? Cioè del 2012, sì, sì. No, si stanno accordando, Matteo. Mannaggia la miseria, speriamo che, perché per me è il massimo l'Olimpiade, quindi il massimo l'Olimpiade. Va bene. E poi un'altra cosa. Sì. Mi è piaciuto molto l'intervento che avete fatto riguardo a quegli scalmanati della domenica. Io dico invece un'altra cosa, oltre che mi è piaciuto molto, dico molto, questa cosa qui. Direi di abbandonarli completamente, di fargli sentire una nullità. Solo così penso che potremmo risolvere un po' di problemi. Non solo così, ma anche questa potrebbe essere una strada. Matteo, grazie. Andiamo subito per prima l'intervallo, perché sapete che non mi piace tenere troppo gli ascoltatori in attesa. Andiamo a Padova da Alfio. Buongiorno. Pronto? Dica Alfio, buongiorno. Buongiorno Garanzini, buongiorno a lei e al suo ospite. Grazie. Ma guardi, io sono un buon interista, un sano interista, e però mi permetto così di fare osservazione con lei, persona esperta e capace nell'ambito sportivo e calcistico, perché vorrei dare un aiuto ai nostri amici, ai nostri cugini milanisti, perché ritengo che avendoli visti giocare domenica sera, peraltro ottima partita, allora mi domando come mai le due domeniche precedenti abbiano giocato in maniera così oscena, perché anche la prima con Ronaldinho comunque non è stata una partita di buon spessore, se non per l'emotività basta, e quindi io credo che lì ci vuole la mano di un allenatore nuovo. E Ballardini, visto che prima ne parlavate, che lo sto così anch'io fra le righe osservando, mi potrebbe sembrare l'allenatore giusto per il Milan. Vedremo, Alfio, grazie. Beh, il leggendario Sergio, tassista milanese, informa che quando ha sentito l'appello ha alzato molto la radio, e a quel punto le due signore hanno abbassato un tantinello la voce. Stanno per scendere all'Humanitas di Rozzano, mi informa cortesemente il tassista Sergio. Sentiamo qualche voce di vigilia, visto che stasera si gioca la quarta di campionato. Sentiamo per esempio un tecnico inedito, perlomeno alla ribalta, come il vice di Mourinho, Beppe Baresi. Stando vicino a lui potrei diventare il miglior vice allenatore. È una cosa fantastica per me riuscire a lavorare vicino a lui e rubare, vedere, scrivere tante cose. Credo che sia, non so gli altri, il migliore. Insomma, no, era difficile immaginare altro, ma certamente, certamente così. Sì, interessante e anche forse un pochino imbarazzante. Un suo vecchio compagno di squadra, invece, che nel frattempo ha fatto molta gavetta e sta cominciando a fare strada, Zenga. La Juve non è mai morbida, mi dispiace, ma certe affermazioni le eviterei, perché la Juve non è mai stata morbida. È una società seria, una squadra seria. Giocatori che dentro quello spogliatoio hanno costruito qualcosa di importante, di molto importante. Basta vedere che molti di loro hanno giocato anche in Serie B pur di restare lì. Quindi tanto rispetto e grande considerazione. Catania è impegnato, come sapete, sul campo della Juventus. Un turno serale, scrive Sebastiano, sarà un banco di prova anche per gli arbitri. Quali sono le insidie maggiori per i fischietti? Ma Sebastiano, io penso che prima o poi arriverà una domenica o un mercoledì, in questo caso difficile per gli arbitri. Quello che mi pare di poter dire è che fino adesso questa rubrica che il Sole 24 Ore mi ha affidato e che tengo il martedì sul quotidiano, ieri il titolo era bello significativo da questo punto di vista, perché la squadra del titolo era la squadra di Collina in testa al campionato. Io credo che in rapporto alle attese della vigilia nessuna squadra finora abbia fatto bene come quella arbitrale, perché gli errori sono stati davvero pochi, ridotti al minimo, ma soprattutto mi pare ci sia stata una discreta coesione di uniformità sui campi. E poi guardi, la controprova è molto semplice. Guardi con che bava alla bocca finora i moviolisti sono lì in agguato e non trovano ossa da mordere, perlomeno, ripeto, per il momento. Quindi io credo che fosse giusto sottolineare questo. Ovviamente l'augurio è che si continui a questo modo senza farci eccessive illusioni, perché prima o poi gli errori o le discussioni torneranno, anche quelle capziose evidentemente, che ripeto invece attualmente stanno un po' in Ramadan, no? E poi ce ne saranno invece anche di quelle fondate, come inevitabile. Sentiamo Walter da Mantova, buongiorno. Salve, signor Granzini. Dica. Proprio su Menez, io pensavo, avendolo visto il sabato scorso a giocare, che è un giocatore che non ha paura di sbagliare, insomma, entra in campo con tranquillità e poi ha idee, è un ragazzo che ha idee, è strano vederlo nel campionato italiano, un ragazzo così giovane. E poi un'ultima cosa. Va bene i Musigno e tutti i grandi allenatori che abbiamo in Italia, ma accidenti, signor Garanzini, Lidl era veramente un poeta. Arrivederci. Ah beh, se parliamo di Lidl da calciatore e allenatore, è ovvio che saliamo a livelli che poi altri dovranno dimostrare di sapere raggiungere, soprattutto nell'insegnamento ai giovani e ai ragazzi. Io non dimenticherò mai, visto che allora facevo cronista e seguivo i campi, cioè seguivo gli allenamenti, allora si poteva anche, non dimenticherò i miglioramenti che fece Tassotti nel giro di un anno o due affidato le cure di Lidl, ma i miglioramenti tecnici, tattici e soprattutto tecnici, comunque proprio il piede, come Lidl si dedicò alla cura di questo ragazzo in cui ha intravisto giustamente grandi qualità. C'è un'agenzia da Londra, informa che Ferguson ha detto di aver convinto Cristiano Ronaldo a rinunciare per ora al Real Madrid. Gli ho parlato seriamente, ha detto Ferguson, e lui ha accettato il fatto che il trasferimento avverrà più avanti. Ho sottolineato che era meglio per lui lasciare, come lasciò Eric Cantona, in un momento in cui possa godere delle benevolenze dei tifosi, in cui possa andarsene come un eroe. Chissà se Ronaldo è in grado di afferrare concetti di questa complessità. Marco da Imola, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Io volevo esprimere la mia opinione, poi sentire la sua, per la questione di Massimo Moratti con la Saras. Sì. Perché secondo me, da quello che ho letto e sentito, poco, però penso che la persona di Massimo Moratti si era fatto paladino dell'onestà. E dopo i passaporti, dopo le plusvalenze, adesso con questa storia qua della Saras, secondo me voglio sapere la sua opinione. Una opinione che sono... Perché vedo che nei mezzi di comunicazione questa notizia oggi è stata passata in secondo piano. E lei cosa avrebbe fatto, Marco, invece? In che piano l'avrebbe messa se non ci sono novità? Per me la cosa è molto grave, quello che è successo, se le cose stanno come han detto. Ma se le cose stanno come han detto, questa è una relazione, l'abbiamo letta correttamente ieri, tutto quello che ha pubblicato Repubblica è una relazione che è stata affidata, su cui, insomma, è un fatto su cui sta indagando una procura, ma siamo agli inizi soltanto di un percorso, quindi non so, lei mi sembra di quei vedovi che hanno fretta, insomma, no? I vedovi cose, invece per carità, poi succederà chissà che sviluppo, ma nel frattempo anche i vedovi Moggi devono farsi farsi l'idea che bisogna comunque rispettare delle tempistiche, no? E soprattutto, se fosse possibile, ma in Italia certamente non lo è, non sommare pere con mele, e cioè capire che ci sono vicende strettamente sportive e ci sono vicende invece economiche che possono poi avere implicazioni anche sportive, ma possono poi eventualmente avere. Tornerei a sentire qualche voce. Per esempio, visto che se ne parlava prima, proprio quella di Ballardini alla vigilia del Napoli. Sono bravi anche senza il sostegno dei loro tifosi più accesi. Detto questo, noi andiamo a Napoli consapevoli di affrontare una grande squadra che quest'anno ancora, insomma, hanno fatto molto bene, fino ad ora stanno facendo molto bene, però noi stiamo bene, quindi siamo pronti per fare una buona partita. Sarà davvero una bella partita quella di stasera tra Napoli e Palermo, perché dopo l'arrivo di Ballardini sulla panchina del Palermo, non c'è paragone sul cambio di rendimento che c'è stato. Ma il Napoli, se guardiamo anche agli avversari che ha avuto sino ad ora, e cioè trasferta a Roma, sul campo della Roma, la Fiorentina in casa e poi trasferta a Udine, io credo che quei 5 punti, oltretutto con turnover e qualche infortunio, significhino parecchio di più di quello che invece non rappresentano materialmente. Gianmaria da Genova, buongiorno. Buongiorno, dottor Granzini, innanzitutto mi lasci dire, so che lei dice che è tempo perso, ma ancora l'intervento che ha fatto prima riguardo a Moratti mi conferma che è uno dei più degni eredi del maestro Gianni Brera. Comunque, io volevo fare una considerazione su Mourinho, sono tifoso interista. Mi sembra che dal punto di vista tattico, tecnico, non abbia poi portato queste grosse innovazioni, però indubbiamente quanto vale l'aspetto caratteriale in Mourinho, cioè questa sua forte personalità che le consente di farci seguire, sembra quasi ciecamente, da tutti i giocatori, anche da personaggi che sembravano quasi recuperabili come Adriano. Grazie. Gianmaria, ascolti, dall'alto della mia geriatria, mi crede se le dico che dopo 3 partite questi discorsi non hanno senso? Poi in realtà non sono 3 di campionato, ce n'è qualcuna, insomma, ce n'è già una di Coppa Campioni, anzi Champions League, quella Coppa Campioni comincia a febbraio. Ce n'è qualcun'altra di Coppa, sono delle amichevoli, ma insomma io credo che soprattutto mi pare ci sia un riferimento, un precedente assolutamente illuminante, che è quello di Mancini. Mancini non era poi lasciando stare le differenze tra di loro, non entriamo nel merito, parliamo di carattere e di rapporto con la squadra. Mi sembra che Mancini avesse dimostrato sempre di avere la situazione in pugno all'Inter, comunque, no? Dovendo affrontare situazioni anche difficili in certi momenti e delicate di rapporti con giocatori. Poi un bel giorno è saltato per aria, alla prima vera difficoltà è saltato per aria, ma perché? Perché erano 2-3 mesi che i risultati non venivano più. Ora, dato che i risultati vengono attraverso il gioco, ma anche attraverso ma soprattutto in base a quanto combinano i giocatori, aspettiamo di valutare Mourinho anche quando le cose andranno un po' meno bene di adesso, e fatalmente quei momenti lì arrivano sempre in un percorso. Mi sembra più interessante la prima parte del suo intervento, e cioè che non vede fino ad ora grandi novità rispetto allo scorso anno. In effetti è così, non è facile nemmeno cambiare una squadra che viene da 2 anni di vittorie. Comunque, Claudio da Roma, buongiorno. Buongiorno, faccio appello alla sua vasta competenza per porre una domanda molto semplice e sintetica. Siccome prima si parlava di Totti, volevo sentire da lei un confronto sintetico tra le qualità, diciamo, tecniche e calcistiche di Totti, che adesso non è più una vera mezzala, non c'entranti, e grande Valentino Mazzola. Grazie. Grazie a lei, però in questo caso, cioè, la mia geriatria non arriva purtroppo fino, per fortuna, non arriva fino a Valentino Mazzola, anche se avrei dato molto per poter aver visto giocare Valentino Mazzola. In realtà cadde a Superga quando avevo un anno e quindi non lo so, dovrei parlare per sentito dire. Se vuole le posso mettere insieme un altro parallelo con l'unico calciatore del dopoguerra. Beh, la storia non è mancata sino ad ora in questo appuntamento di oggi, ma c'è ancora da ripassare quella curata da Nicola Filippone. Sembra ieri. 24 settembre 1988. A Seul, lo sprinter canadese Ben Johnson stupisce il mondo, conquistando l'oro olimpico nei 100 metri con il tempo di 9,79, nuovo record mondiale. Una prestazione con cui surclassa il rivale Carl Lewis, che arriva con 13 centesimi di ritardo e deve accontentarsi della medaglia d'argento. Ma il trionfo di Johnson dura solo fino alla diffusione dei risultati dei test antidoping, due giorni dopo. Il canadese risulta positivo a uno steroide anabolizzante. Il successo col record di Seul viene immediatamente cancellato. L'oro è assegnato a Lewis, mentre Johnson subisce una squalifica di 2 anni. Una delle pagine più nere, credo, della storia dello sport mondiale di tutti i tempi, quella che in assoluto forse più ha contribuito a picconare la credibilità dello sport, proprio quello con la S maiuscola. Non è finita oggi con la storia, perché poi c'è un Marc Ord pubblicato ieri dal Corriere della Sera, ma per una data di oggi. Lo tengo da parte, ma prima di finire il programma ve lo leggo. Fabrizio da Lecco, buongiorno. Buongiorno Garanzini, dica. Complimenti per la trasmissione. Ho sentito un radiotrasmettitore, un ascoltatore precedente che ha sollevato la polemica della Saras. Io ero già intervenuto un annetto fa a proposito dei bilanci dell'Inter, poi non c'era stato lo spazio perché era finito il tempo, e volevo puntualizzare quello che non ero riuscito a dire un anno fa. Quindi una robetta fresca, insomma. Sì, però è molto attuale. Negli ultimi 2 anni l'internazionale ha perso 300 milioni di euro come deficit di bilancio, ed esattamente 600 milioni circa negli ultimi 5 anni. 600 milioni di euro sono 1.200 miliardi di vecchie lire. Sono cifre veramente spaventose, se pensiamo che è comunque uno sport, e quindi non genera una produzione economica. E la cosa che stupì al momento del collocamento della Saras era il fatto che era stata collocata ad un prezzo esorbitante rispetto anche ai dati di bilancio, e tutti sospettavamo che fosse, tra parentesi, io sono un operatore finanziario, sospettavamo che un prezzo così gonfiato fosse stato confezionato ad arte da chi doveva collocare il 40% di questa società, per far avere alla famiglia Moratti 2 miliardi di euro, perché il collocamento della Saras è valso ai due fratelli Moratti 2 miliardi di euro, 1 miliardo e 950 milioni per la precisione. Ora la magistratura sta indagando, però i risultati precedenti di queste vicende mi lasciano abbastanza diffidente che si arrivi a qualcosa. Fabrizio, fino ad ora ha detto bene alla fine, fino ad ora non è... Cioè, tutto poi è rientrato, e tutto quello che all'inizio era stato sollevato con enorme clamore è rientrato. Questa può darsi di sì, può darsi di no, non ne ho la minima idea. Penso che le cifre che lei ha fatto siano, visto anche il mestiere che fa, siano credibili. Le perplessità di cui lei ha parlato al momento della collocazione in borsa le ricordo anch'io, e le ricordano bene anche qui a Sole 24 Ore. Quindi staremo un po' in campana per seguire questa vicenda, che indubbiamente merita di essere seguita. Una storia invece molto, ma molto più vecchia, perché risale a 25 anni fa, l'ha ricostruita ieri il Corriere della Sera. Oggi è l'ha ricostruita ieri, annunciando per oggi, per l'appunto, il 25esimo anniversario. Il Corriere l'ha chiamato il tackle più famoso della storia del calcio. Io direi il tentativo di omicidio più famoso della storia del calcio, perché il tackle è una cosa corretta. L'entrata di Goico Ecea su Maradona invece la sera del 24 settembre 83, un sabato sera, non, certamente non lo fu. Perché quell'incidente è passato, quel tentativo di omicidio calcistico è passato alla storia? Ma perché Goico Ecea era già un macellaio prima. Era stato autore, lui aveva 27 anni Goico Ecea allora, e giocava in Athletic Bilbao e nell'81, cioè esattamente 2 anni prima, aveva rotto un ginocchio a Schuster, l'attuale allenatore del Real, che giocava allora nel Barcellona, e lo aveva costretto a un anno di stop. Non contento, evidentemente, quando dopo Schuster si era trovato davanti Maradona, aveva deciso di aggiungere un altro scalpo e fratturando tibia e perone di Maradona, insomma, mise in pericolo la carriera di quel fenomeno. Rischiò quell'entrata di privarci di tutto quello che poi avremmo visto di Maradona in campo, ovviamente. E fu squalificato per 18 giornate Goico Ecea in seguito a quell'evento. E niente, e oggi lo ricorda, insomma, in maniera non particolarmente contrita, mi sembra di capire dalle sue parole. Certo, quando lo scorso anno Goico Ecea, che nel frattempo è diventato allenatore e allenava l'Hercules in seconda divisione, quando era stato esonerato, io ricordo che sia da parte di tanti appassionati, la mia senz'altro, non c'era stato questo grande dispiacere professionale per questa sua disavventura. Jordan ha chiamato da Vicenza, buongiorno. Buongiorno, dottor Galanzini. Dica. Due cose, la prima, sì. Beh, essendo juventino, cosa ne pensi intanto della Juventus, ma soprattutto se reputa giusto il dosaggio, l'utilizzo di Giovinco in maniera part-time, cioè non capisco se lo vogliono far crescere, se possa essere utilizzato in futuro oppure se sia meglio dare in prestito, insomma, la seconda, essendo un mio vicino di casa e un grandissimo orgoglio vicentino in Serie A, cosa ne pensa di Cristian Maggio? Penso tutto il bene possibile e credo che fosse una mi ricordo di averlo definito a fine maggio l'unico errore di Donadoni, nel senso di non esserselo portato agli europei. Giovinco, lei ha detto part time, magari fosse un part time il suo, cioè magari giocasse ogni tanto, il problema è che non vede nemmeno la panchina. Io credo che, visto che lei è vicentino, lo chieda a un altro suo conterraneo che è Pasqualini, che è il suo manager. Insomma, si è fatta viva l'Arsenal, Giovinco vuole giustamente un sacco di soldi in più di quelli su cui ci si era accordati perlomeno a parole, e quindi credo che anche questo ci sia alla base di questo presunto part-time, che si scrive così ma si legge in un'altra maniera. Filippo Auregi in regia, Flavio Suardi in redazione, appuntamento a domani.